Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il Salon Indien è un grande stanzone situato sotto il Grand Café, rinomato locale di Parigi che si trova al 9 arrondissement, al 14 di Boulevard des Capucines, vicino alla Place de l'Opéra. Sin dalla metà dell'Ottocento il Grand Café è il luogo di ritrovo dei parigini colti, un locale dove si riuniscono le persone più in vista della città per scambiarsi informazioni letterarie, gossip politici, notizie sulla gente che conta. Non è un caso che il Salon Indien venga scelto per la prima rappresentazione di una nuova invenzione destinata ad essere considerata per molto tempo un divertimento squallido e immorale, adatto solo alle masse ignoranti. Chi ha scelto quel luogo ha voluto fare uno sberleffo a tutti quelli che al piano di sopra in quel momento staranno pranzando. Fin dalla prima mattina del 28 dicembre 1895, chi passa lì davanti può leggere una locandina che presenta il programma di quella sera. È una rappresentazione assolutamente inedita. Il cinematografo. Questo apparecchio, inventato dai signori Auguste e Louis Lumière, permette di riprodurre tutti i movimenti che in un certo tempo stabilito si sono succeduti davanti all'obiettivo, proiettandoli su di uno schermo a grandezza naturale, davanti ad un pubblico intero. Il cinema, una delle invenzioni più rivoluzionarie di tutti i tempi, scoperta impagabile, che diverrà ben presto una delle arti più apprezzate al mondo, nasce in uno scantinato. Antoine, padre dei due inventori, Auguste e Louis Lumière, sceglie proprio il Salon Indien con una punta di ripicca nei confronti della gente bene di Parigi, che snobba l'invenzione popolare dei figli. Nel pomeriggio antecedente alla prima dello spettacolo, Antoine si sta ancora dando da fare per trovare invitati che partecipino alla proiezione, ma fa decisamente fatica. Sembra che a nessuno interessi quello che lui reputa a ragione un portento. Non sa più a chi chiedere, quando improvvisamente gli viene in mente un suo amico al quale stranamente non aveva ancora pensato. È un mago, uno che fa il pienone ogni sera con i suoi spettacoli. Forse lui potrebbe anche portargli un po' di pubblico. Tu che incanti tutti con i tuoi trucchi, devi venire stasera e vedere qualcosa che molto probabilmente ti stupirà. Il suo interlocutore non è convinto. Lui fa il mago da tempo, anche se ha solo 34 anni, è già direttore di un teatro e di trucchi ne conosce tanti. Antoine Lumière gli pare più un padre che cerca di attirare l'attenzione sull'invenzione dei figli, piuttosto che un impresario realmente convinto della bontà del suo spettacolo. Però tant'è, quella sera non ha molto da fare, quindi si presenta al Grand Café. Vedendolo arrivare e apprestarsi a scendere nel Salon Indien, gli avventori chic e raffinati che affollano l'elegante locale hanno un moto di stupore. Come mai quel giovane ha accettato l'invito dei Lumière? Lo conoscono in parecchi a Parigi. Lui è il noto mago Georges Méliès. Georges Méliès. Scendendo nel Salon Indien, il giovane mago si accorge che sono veramente poche le persone che hanno deciso di assistere alla misteriosa rappresentazione dei fratelli Lumière. Quando le luci in sala si affievoliscono, sono solo 33 gli spettatori che hanno pagato un franco per il biglietto. Ci ritrovammo seduti davanti a un piccolo schermo, tipo quelli che si usano per proiettare le fotografie. Dopo alcuni minuti apparve una foto di Place Bellecour a Lione. E piuttosto sorpreso, sussurrai al mio vicino: ma siamo stati portati qui solamente per vedere una foto. Sono più di 10 anni che le faccio. Avevo appena finito di parlare quando un cavallo che tirava un carretto iniziò a camminare verso di noi, seguito da altri veicoli e poi da alcuni passanti. In breve, il movimento di una strada. A quella vista sedemmo con le bocche spalancate, come colpiti dal fulmine, senza poter parlare dalla meraviglia. Alla fine della proiezione si scatenò la follia. Tutti volevamo sapere come avessero fatto ad ottenere una cosa simile. Nonostante le 10 pellicole dei fratelli Lumière durino non più di un minuto l'una e rappresentino normali scene di vita quotidiana, gli spettatori ne sono sconvolti. Il fatto che quelle scenette semplici vengano proiettate su uno schermo che un'intera sala di persone può vedere in contemporanea rende lo spettacolo un fatto unico, incredibile. Neanche i più moderni e sofisticati effetti speciali realizzati oggi dai potenti mezzi cinematografici hanno sul pubblico l'impatto che quelle semplicissime immagini devono aver avuto sui 33 spettatori del Salon Indien a Parigi. Ma sicuramente colui che ne ha la vita stravolta e non sarà mai più lo stesso uomo è Georges Méliès, al quale quel cinematografo primordiale spalanca le porte di qualcosa di inaspettato. Remember the feeling, the fire started, the rush of the moment. I stopped all the searching for reckless emotions. You Georges Méliès, mago parigino 34enne, rimane folgorato dalla prima proiezione del cinematografo dei fratelli Lumière il 28 dicembre del 1895. È qualcosa di incredibile, che sconvolge tutti i presenti e che scatena immediatamente una curiosità dilagante in tutta la Francia e ben presto anche all'estero. Ma l'effetto che la proiezione ha su Georges Méliès è travolgente. Mentre il giovane si trova seduto nella semioscurità del Salon Indien al Grand Café di Parigi e assiste alla proiezione, scatta in lui qualcosa di definitivo, che fa svoltare la sua carriera. Non ha mai visto un simile spettacolo, eppure lui di trucchi e di magie se ne intende parecchio. La manifattura Méliès è un calzaturificio molto conosciuto a Parigi. Le sue scarpe sono ben fatte e durano a lungo. Tutta la famiglia ci lavora. Il padre Jean-Louis Stanislas, la madre Johanna Catherine e i due figli più grandi Henri e Gaston. Quando nasce Georges, la famiglia è già molto benestante e il piccolo di casa può ricevere quell'educazione raffinata che non è stato possibile offrire ai figli maggiori. Georges frequenta un liceo molto severo, ma la sua vena artistica sovrasta il suo innato amore per la conoscenza in generale. Mentre è intento a una composizione in francese o sta faticando sull'ennesima versione di latino, il ragazzo fa volare la matita sul foglio bianco, realizzando con maestria disegni di ogni genere. A scuola, con un occhio leggevo i compiti, con l'altro controllavo quello che stavo disegnando. Mi piaceva soprattutto fare le caricature dei professori o dei compagni di classe. Alcune volte improvvisavo paesaggi stranissimi, di fantasia. Oppure creavo delle situazioni che, a rivederle oggi, sembrano di già dei veri e propri set. Georges disegna in continuazione. Riempie quaderni, fogli volanti, copertine di libri. Ogni centimetro vuoto può essere utile quando gli prende l'ispirazione. E proprio grazie alla sua bravura nel disegno, che inizia a collaborare con il teatro della scuola, realizzando marionette di cartone. Quel mondo lo affascina subito e decide che sarà quella la sua professione. Dopo il diploma, il padre lo manda a Londra per occuparsi di alcuni affari della manifattura. Qui Georges vede uno spettacolo che non scorderà mai più. All'Egyptian Hall, una fiera stabile dedicata alle rappresentazioni di magia e di occultismo, assiste a uno strepitoso spettacolo del grande illusionista John Neville Maskelyne, l'inventore della levitazione. È quella l'arte che gli interessa di più, la magia. Tornato a Parigi, prende subito lezioni dal mago Émile Voisin e in brevissimo tempo si specializza a tal punto che inizia a fare spettacoli. Mentre si trova sul palcoscenico e vede il pubblico che pende dalle sue labbra, che assiste incantato alla sua performance, Georges comprende che la sua vita può essere felice solo in un teatro e che deve assolutamente far capire a suo padre che non intende impegnarsi nell'impresa di famiglia. Ma fortunatamente non ha bisogno di discutere. Suo padre, infatti, decide di ritirarsi e di cedere l'attività ai tre figli. Per fortuna i miei fratelli accettarono di rilevare la mia quota. Con quel patrimonio potevo acquistare il gran teatro di Jean-Eugène Robert Houdin. Il famosissimo illusionista era morto anni addietro e il suo teatro era in vendita. Fu per me un'emozione incredibile. Non solo realizzavo il mio sogno, ma entravo da proprietario nel tempio della magia. Georges Méliès è un uomo realizzato. Gira tra le poltrone vuote del suo teatro, osserva la platea dal palcoscenico, accende tutte le luci creando un'atmosfera quasi surreale in quel salone completamente deserto. Scende attraverso le botole nascoste, si intrufola nei passaggi segreti, apre i bauli polverosi che contengono i trucchi del grande illusionista Robert Houdin. Sente che quegli oggetti gli parlano, gli trasferiscono il sapere del suo grande predecessore. È anche vero però che la maggior parte dei trucchi, delle illusioni, degli stessi arredi si rivelano essere alquanto obsoleti. Méliès si rende conto che il suo teatro ha bisogno di una spolverata e così negli anni successivi crea oltre 30 illusioni nuove, rifacendosi soprattutto a quello che ha visto a Londra. La sua inventiva non ha confini e le sue capacità sono alle stelle. Il teatro Robert Houdin ritorna allo splendore dei tempi del suo fondatore, ma Georges sente che gli manca qualcosa, vorrebbe fare di più, presentare al suo pubblico qualche novità, inventare qualcosa di nuovo. È in questo stato d'animo di grande attesa, quel 28 dicembre 1895, quando l'invenzione dei fratelli Lumière, il cinematografo, fa il suo ingresso prepotente nella sua vita. Siamo spiacenti, signor Méliès, ma non possiamo accettare. Anzi, le confesso che abbiamo rifiutato una cifra superiore di 5 volte la sua dal direttore delle Folies Bergère. Antoine Lumière, padre di Auguste e Louis, inventori del cinematografo, in qualità di impresario dei figli, gestisce la loro invenzione con grande determinazione. Di fronte all'offerta di 10.000 franchi da parte di Georges Méliès per l'acquisto di una macchina per cinematografo, egli non mostra il minimo tentennamento. È un no risoluto il suo. Mentre se ne sta tornando a casa, deluso e amareggiato per il rifiuto di una somma decisamente ingente, Georges sfodera tutta la sua energia. Quel cinematografo dei Lumière è senz'altro qualcosa di grande, forse nemmeno loro sanno quanto. Ha sentito lui dire che è un'invenzione senza alcun futuro commerciale e lui non è per niente d'accordo. Non può pensare che qualcosa di così rivoluzionario non diventi di dominio pubblico ed è fermamente deciso a trovare una strada alternativa e a non arrendersi. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. Il mago parigino Georges Méliès, dopo aver assistito alla prima proiezione del cinematografo inventato dai fratelli Lumière il 28 dicembre 1895, decide di acquistare dagli inventori una delle loro macchine per cinematografo per poter proporre altre rappresentazioni nel suo teatro. Purtroppo, i 10.000 franchi che il giovane mago offre ai Lumière gli vengono rifiutati, così come qualsiasi altra offerta. Méliès però non si scoraggia. È certo che quell'invenzione rappresenti qualcosa di importante, sia destinata ad avere un futuro di grande successo, anche se i suoi stessi inventori non ne sono altrettanto convinti. Per questo motivo Méliès decide di agire diversamente. Lo hanno informato che a Londra l'inventore Robert Paul ha realizzato l'animatografo, un proiettore molto simile a quello dei fratelli Lumière. Senza alcun indugio, Georges parte immediatamente alla volta di Londra. Il mio cinetoscopio è differente da quello di Edison. In realtà mi fu chiesto da due uomini di affari greci di copiarlo, ma io, anche se non vi era alcun brevetto in Inghilterra, ho preferito realizzarne uno tutto mio. Il difetto era però che la visione poteva avvenire solo singolarmente. Ecco perché ho creato il teatrografo, una sorta di proiettore simile a quello che hanno prodotto i Lumière. Méliès è contentissimo. Nel suo teatro le proiezioni hanno un successo strepitoso. Il pubblico fa a gara per poter vedere i brevissimi filmati che lui acquista di solito a Londra. Certo, sono di scarso livello, soprattutto rappresentano la semplice realtà, mentre Georges si rende conto che il potenziale di questo mezzo è legato alla fantasia. E proprio mentre sta pensando al grande salto che il cinematografo può fare, passando da semplice riproduttore della realtà a strumento di racconto fantastico, proprio mentre si sta domandando se la sua magia non possa intervenire in quella nuova forma di arte, il destino gli combina un incontro che risulta determinante per il suo futuro nel meraviglioso mondo del cinema. E tutto per merito di una donna, una giovane attrice che collabora con lui in teatro, Julienne Alexandrine Mathieu. Il mio fidanzato è un grande appassionato di questo cinematografo. Ha assistito anche lui a una di quelle proiezioni dei fratelli Lumière. Da quel momento non parla d'altro. Quando gli ho detto che anche lei, Georges, si occupa di queste cose, mi ha detto che deve assolutamente conoscerla. Il fidanzato di Julienne arriva nel teatro di Méliès portando con sé tutta la passione per l'arte, il cinema e la magia ad essi strettamente legata. Méliès è sicuramente un suo idolo e conoscerlo è un piacere unico per lui. Mentre si presenta la sua voce è emozionata, ma il nome risuona alto nel silenzio del teatro vuoto. Segundo de Chaumont. Segundo de Chaumont. Giovane e spagnolo, forte e appassionato. Così è Segundo, un ragazzo di grande talento e molta inventiva. Originario di Teruel, in Aragona, Segundo de Chaumont proviene da una famiglia nobile francese, i de Chaumont. Nel corso degli anni il cognome viene ispanizzato, ma Segundo cresce con un grande amore per la Francia e sogna di visitare Parigi. Compie i suoi studi di meccanica e ingegneria a Saragozza e riesce a coronare il suo sogno di un viaggio nella sua terra di origine proprio nel 1895, l'anno in cui i fratelli Lumière presentano il loro cinematografo al pubblico parigino. Lui non è presente quella sera del 28 dicembre nel Salon Indien. Non fa parte, come Méliès, di quei 33 fortunati che possono dire di aver vissuto un momento storico, ma riesce ugualmente a vedere quello spettacolo assolutamente incredibile in una delle successive rappresentazioni organizzate da Antoine Lumière. Da quel momento il cinema gli entra nelle vene e il suo destino è segnato per sempre. Non so dire perché, ma fu come innamorarmi. Quelle immagini in movimento, quella diavoleria che faceva tremare le signore e alzare gli uomini per andare a vedere cosa ci fosse dietro la parete dove la pellicola veniva proiettata. Io volevo con tutto me stesso far parte di quella novità, di quella magia. Che poi magia non era. Io da bravo studente di ingegneria e di meccanica lo sapevo bene. Quando Julien racconta a Segundo che Georges Méliès, il grande mago, l'impresario teatrale, sente anche lui quello stesso fuoco sacro per il cinematografo, il giovane non sta più nella pelle, deve conoscerlo assolutamente. E quando soprattutto la ragazza gli conferma che Méliès ha acquistato da Robert Paul un cinetoscopio e ha iniziato a lavorarci con i suoi tecnici per trasformarlo in un vero proiettore, Segundo prende la sua paglietta, il cappello che non abbandona mai, e si fa accompagnare da lui. Fermi uno di fronte all'altro, nella platea vuota del teatro Robert Houdin, Georges Méliès e Segundo de Chaumont riconoscono nell'altro la stessa passione, come guardarsi in uno specchio. Sono molte le cose che si devono dire. Certamente il cinema è un'arte agli albori della sua storia. Non esistono ancora certezze di nessun tipo, né se il pubblico continuerà a dimostrarsi interessato, né se le tecniche impiegate potranno evolversi e in qual senso. Loro due sono a tutti gli effetti due pionieri, e la parola d'ordine in questo caso è sperimentazione. Insieme a due tecnici, Lucien Corstin e Lucien Relos, Méliès aveva brevettato un suo cinematografo che lui chiamava affettuosamente macinino da caffè o anche mitragliatrice a causa del rumore infernale che faceva. Ma più avanti si iniziarono a trovare a Parigi delle apparecchiature migliori costruite sia dai Lumière che da altri tipo Pathé o Gaumont, e così Georges ne acquistò una visto che iniziava a girare dei film anche lui. Quello che sfugge agli altri è invece chiarissimo a Georges Méliès e a Segundo de Chaumont. Il cinematografo inventato dai Lumière riproduce quello che semplicemente si vede, la vita di tutti i giorni, la realtà nuda e cruda. Anzi, la sua forza sta proprio in quello, nel riuscire a mostrare a un pubblico raccolto in un'unica sala la vita delle persone così com'è, in una rappresentazione gemella della verità. Méliès e Chaumont hanno altro in mente. In maniera ancora molto confusa, i due si confrontano su un piano che ancora deve essere pensato, studiato, realizzato. Ma la loro sensibilità comprende che il cinema può essere molto più di semplice rappresentazione. Può condurre gli spettatori per mano in un mondo inesplorato, quello che solo le vere arti come la musica, la pittura e la letteratura possono svelare. Il magico e immaginario mondo della fantasia e del sogno. Destini incrociati. A Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia della nascita dello spettacolo cinematografico. Se ai fratelli Lumière va infatti il merito di aver inventato il cinematografo, indubbiamente il cinema come lo conosciamo oggi noi, quello che verrà definito il montaggio delle attrazioni, è ben altra cosa rispetto ai brevi spezzoni di pellicola che i due fratelli parigini presentano al Salon Indien del Grand Café il 28 dicembre 1895. Se quelle pellicole mostrano una semplice rappresentazione della realtà e si rivelano essere più che altro lo strumento per poter comprendere l'invenzione, è a Georges Méliès, universalmente riconosciuto come il secondo padre del cinema, che va il merito di averlo trasformato in arte. Méliès, illusionista affermatissimo nella Parigi di fine Ottocento, folgorato dall'invenzione dei fratelli Lumière, comprende le potenzialità di questa forma di spettacolo e intravede sviluppi impensabili. Ma è l'incontro con un altro appassionato di cinematografia, il giovane tecnico spagnolo Segundo de Chaumont, che porta alla nascita di un nuovo genere di arte. I fratelli Lumière hanno sguinzagliato in giro per il mondo i loro operatori. Hanno intenzione di documentare in maniera scientifica tutto quello che è possibile filmare. Ne ricaveranno certamente dei filmati interessanti. Daranno la possibilità a chi non può andare in quei paesi di vederli con i propri occhi. Ma c'è un altro modo di viaggiare, c'è un altro mondo da esplorare, ed è quello della fantasia e della magia. Segundo de Chaumont non ha dubbi. Lo sta dicendo a Georges Méliès mentre sono al lavoro negli uffici del teatro Robert Houdin, di proprietà dell'illusionista. Méliès è intenzionato a realizzare film fantasiosi, innovativi, magici. Le sue doti di illusionista gli dovrebbero permettere di ottenere qualcosa di spettacolare da quella nuova invenzione, il cinematografo. Ma né lui né Segundo de Chaumont sanno bene in che direzione andare. Poi il caso li aiuta, mettendoli sulla strada giusta. Mentre sta filmando all'aperto nei pressi di Place de l'Opéra, Méliès non si accorge che la sua cinepresa si è inceppata. Continua pertanto a riprendere una carrozza che passa per la strada. La carrozza se ne va e dopo pochi attimi sopraggiunge un carro funebre. Anch'esso viene ripreso. La pellicola è finita e Méliès se ne torna in teatro. Non sa bene che cosa potrà fare di quello che ha appena filmato e non ne è sinceramente troppo soddisfatto, ma non sa ancora che un'incredibile sorpresa lo attende. Quando sviluppammo la pellicola, quello che vedemmo fu uno dei trucchi di magia più incredibili ed anche impossibile. La carrozza che avevo ripreso, ad un tratto inspiegabilmente si trasformava nel carro funebre. capimmo che evidentemente la cinepresa si era inceppata e poi aveva ricominciato a riprendere da sola. Era passato del tempo tra una ripresa e l'altra, ma non si vedeva. Quindi l'effetto era quello di un trucco inspiegabile e strepitoso. Se questo è quello che è successo in maniera accidentale, dando un risultato così incredibile, l'effetto può essere ripetuto volontariamente per creare magie inattuabili dal vivo. Ecco quello che Georges Méliès stava disperatamente cercando. Un sistema, qualcosa di mai sperimentato, che permetta alla sua magia di manifestarsi grazie alle tecniche del cinematografo. La sua strada è tracciata. Méliès fonda la Star Film Company, casa di produzione cinematografica con sede in un gigantesco studio che fa costruire in una sua proprietà di Montreux, alle porte di Parigi. In questa sede lui e Segundo de Chaumont danno vita a una serie di pellicole caratterizzate da situazioni che per quell'epoca sono realmente incredibili. Si può parlare sicuramente della nascita degli oggi tanto amati e utilizzati effetti speciali. Una magia nella magia. Georges Méliès e Segundo de Chaumont, appassionati del nascente cinematografo, sperimentano negli studi di Montreuil, alle porte di Parigi, nuove tecniche di ripresa che consentono di ottenere risultati sorprendenti. Nel film Escamotage d'une dame, la sparizione di una donna, prodotto nel 1896, si vede per la prima volta un trucco possibile solo con la macchina da presa, cioè una donna che nascosta sotto un telo viene fatta sparire, interrompendo la ripresa, facendola uscire di scena e riprendendo a filmare come se non ci fosse stato alcun intervallo. Ma Méliès fa di più. Sostituisce alla donna uno scheletro di scena e quando il telo viene tolto genera uno scalpore ancora più grande. Poi nel gran finale fa riapparire la donna tra lo sconcerto del pubblico. Non solo questo film rappresenta il più antico esempio di montaggio cinematografico, esso segna anche l'inizio di un cinema fantastico. Méliès non fa semplicemente sparire la donna per poi farla ricomparire, cosa che rappresenta già un'innovazione tecnologica sorprendente. Egli si inventa il trucco dello scheletro, cioè crea un racconto, gli dà una connotazione da favola, ponendo le basi dell'horror o anche del film comico, se si vuole. Linwood Dunn, pioniere degli effetti speciali del cinema americano, autore dei rivoluzionari effetti del primo film King Kong del 1933, ricorda gli inizi di quella che può senza dubbio essere definita un'arte. Noi creiamo qualcosa con gli effetti speciali che in realtà non esiste. E la frase non si può fare può essere detta in tutti gli altri settori, ma non in quello degli effetti speciali. Rivedere oggi film come King Kong mi fa pensare che possa essere guardato con interesse anche dalle nuove generazioni, perché in fondo quegli effetti si usano ancora oggi. Si possono ottenere cose incredibili con le miniaturizzazioni, con il fermo immagine, il montaggio e la pittura sui fotogrammi. La pittura su fotogrammi. Ecco un argomento che oggi ci appare scontato. Il cinema a colori è un fatto pienamente acquisito, anzi, si realizzano film in bianco e nero, come il recente e bellissimo The Artist di Michel Hazanavicius, proprio alla ricerca di un sapore diverso, cercando il nuovo nel passato. Ma agli albori del cinematografo il colore, ovviamente, non esiste. Segundo de Chaumont è però un personaggio unico nel suo genere. Per lui il non esiste. È una frase scomoda che gli genera un immediato senso di sfida. Ne sta parlando con Méliès. Dal momento che le pellicole non possono mostrare anche i colori, sarebbe un'innovazione unica, decisamente un bel colpo. Poter mostrare a tutti gli spettatori del teatro Robert Houdin che si assiepano ogni sera per vedere le trovate di Méliès una pellicola a colori. Segundo, si sta scervellando su come fare, mentre Méliès lo guarda allucinato. E se dipingessi ogni singolo fotogramma? Beh, in fondo con le fotografie si fa. Otterremmo una pellicola a colori. Certo è un bel lavoraccio, ma ne varrebbe la pena. Segundo si mette subito all'opera. Passa intere giornate, poi intere nottate a colorare a mano, uno per uno, i fotogrammi che compongono le pellicole dei film di Méliès. Mentre è intento a quello che chiunque definirebbe un lavoro certosino e quasi da pazzi, Segundo sa però che il risultato sarà strepitoso e che il pubblico del teatro Robert Houdin rimarrà a bocca aperta. Ma i film a colori non sono l'unica creazione che nasce dalla collaborazione tra George e Segundo. Molti dei trucchi cinematografici che oggi tutti utilizzano comunemente vengono partoriti dalla loro fantasia. Il mascherino contro mascherino è un'idea che i due sperimentano ben presto. Esso consiste nel coprire metà della pellicola, girare una scena, coprire poi l'altra metà della pellicola già impressionata e girare un'altra scena nella parte libera. Con questo sistema Méliès riesce a filmare situazioni in cui lui stesso interagisce con un altro sé, suscitando stupore e ilarità nel pubblico. Con lo spostamento in avanti e indietro della cinepresa, invece, Méliès e Deschamon realizzano qualcosa di veramente spettacolare. L'ingrandimento spropositato di un oggetto all'interno di un'inquadratura fissa. Nel film L'uomo con la testa di caucciù, Méliès utilizza questo e altri effetti speciali, realizzando uno dei suoi film più famosi. È lui stesso a raccontarne la trama. Mi trovo nel mio studio, dove al centro si vede una porta ad arco. E da qui estraggo un tavolo che poggio al centro della scena, sullo sfondo nero dell'arco, particolare essenziale per l'effetto speciale del mascherino contro mascherino. Su un piccolo ripiano, dotato di tubo con la valvola, pongo una testa che trovo in una scatola. La mia stessa testa, che si muove e parla, realizzata ancora con l'effetto speciale del mascherino contro mascherino. Attaccato un mantice al tubo, inizia a gonfiare la testa che diventa di proporzioni gigantesche. Chiusa la valvola, la testa rimane grande. Poi quando la riapro la testa si sgonfia e diventa piccola. Allora chiamo un clown aiutante, perché gonfi di nuovo la testa, ma il clown esagera e la testa scoppia fragorosamente, rovesciando il tavolo e facendoci cadere per terra. È un effetto che fa ridere di sicuro. Méliès e Deschamon realizzano moltissime di queste pellicole che i due chiamano fantasmagorie. Il montaggio diviene sinonimo di metamorfosi, in un'apoteosi dell'arte delle meraviglie. Il realismo della fotografia in movimento dà grande realismo e credibilità ai trucchi mostrati, così che le leggi della natura sembrano annullarsi in un mondo fantastico irreale, dove la libertà è totale e le possibilità infinite. Nasce un mondo virtuale dove tutto è possibile. Inutile dire che il successo è immediato e incontenibile. Il pubblico del teatro Robert Houdin si assiepa ogni sera per vedere le fantasmagorie di Méliès, spesso colorate da Deschamon. Un tripudio di effetti speciali mai visti, un susseguirsi di trovate geniali e divertentissime, storie inusuali e imprevedibili che fanno ben presto il giro di tutta la Francia per poi varcarne i confini. Il teatro dell'impossibile, dell'anarchia, del sovvertimento giocoso delle leggi della fisica, della logica e della quotidianità diviene un'attrazione mondiale, regalando fama e ricchezze a Georges Méliès e Segundo Deschamon. Destini incrociati. Destini incrociati vi sta raccontando la storia di una magia, quella che unisce in un abbraccio virtuale tutti coloro che oggi si siedono in una sala cinematografica, accendono la televisione o si guardano un bel film sul proprio computer. La magia del cinema nasce senza dubbio dall'invenzione dei fratelli Lumière, che creano una macchina in grado di riprodurre quanto filmato su un grande schermo, dando la possibilità a più persone di vederlo contemporaneamente. Ma se ai fratelli francesi va il primato di avere inventato il mezzo cinematografico, è a Georges Méliès che va quello di averlo reso una vera magia. Grazie all'incontro con il tecnico spagnolo Segundo Deschamon, Méliès riesce infatti a reinventare il cinema, trasformandolo da semplice riproduzione della realtà in pura magia, grazie ai cosiddetti effetti speciali. La collaborazione tra i due è estremamente prolifica. Mentre il primo sta pensando a un certo effetto da realizzare, l'altro si è già messo all'opera per cercare di renderlo possibile. La passione, l'inventiva, la grande abilità che dimostrano fa sì che nel giro di pochi anni vengano realizzati moltissimi filmati di durata variabile, fra 1 e 40 minuti, tutti ricchi di effetti speciali. Si tratta di invenzioni che tuttora vengono normalmente impiegate nella cinematografia moderna, come sottolinea John Burkhardt, specialista in effetti e trucchi cinematografici. La chiave di realizzazione della maggior parte degli effetti speciali usati ancora oggi deriva da quello che scoprì verso la fine dell'Ottocento Georges Méliès, cioè mantenere immutata l'inquadratura. Quindi è fondamentale inchiodare la telecamera e anche tutto il background. Niente si deve muovere. Anche semplicemente toccare la telecamera può rovinare un intero lavoro. Oggi è più facile farlo perché abbiamo il remote control. In pratica io faccio partire e fermare la telecamera grazie ad un telecomando. Quello che si vede nell'inquadratura non va mosso nella maniera più assoluta. Altrimenti poi, quando i due girati, il prima e il dopo dell'illusione, vengono accoppiati, si vede quello che è stato spostato e si perde l'illusione. Georges Méliès e Segundo de Chamon sperimentano anche tramite i propri errori quello che oggi, grazie a loro, tutti gli effettisti ben conoscono. Mentre si apprestano a girare Il ritratto misterioso, una delle pellicole più spettacolari della loro filmografia, i due sanno che la scena deve risultare assolutamente identica tra la prima e la seconda ripresa, altrimenti il trucco perde tutta la sua credibilità. Ma guardando il film, che dura poco più di un minuto, l'effetto è spettacolare. In esso si vede lo stesso Méliès che dialoga con il proprio ritratto. Ottenuto tramite l'impressione della pellicola in due momenti diversi, con un mascherino e relativo contromascherino, questo cortometraggio fa parlare tutta Parigi ed è tuttora estremamente godibile. Se si pensa che stiamo parlando ovviamente di cinema muto, è chiaro che quello che colpisce non può essere la conversazione che avviene tra i due Méliès, ma l'incredibile effetto speciale che ha un risultato strabiliante. And the secrets I've heard, it would ease my mind, someone sharing the load, but I won't breathe a word. We're two of a kind, silence and I, we need a chance to talk. Silence and I, we'll find a way to work it out. L'incredibile avventura di Méliès e de Chamon nel magico mondo del cinema e degli effetti speciali da loro inventati negli ultimi anni del 1800 raggiunge il suo culmine con quello che viene considerato il capolavoro della filmografia di Georges Méliès, Viaggio nella Luna. Il film è una parodia basata liberamente sul romanzo di Jules Verne Dalla Terra alla Luna. La trama è molto divertente. Un congresso di astronomi decide di sparare una navicella a forma di proiettile sulla Luna. Alcuni di loro si imbarcano e vengono sparati da un cannone. Il proiettile arriva sulla Luna, conficcandosi direttamente nell'occhio della faccia dell'astro e provocandogli una visibile irritazione. Una volta scesi, i viaggiatori incontrano i Seleniti e vengono catturati e presentati al loro re. Riescono a scappare e ripartono facendo cadere il proiettile verso la Terra. La navicella atterra in mare e viene trascinata in un porto. Una delle scene iniziali del film, la navicella spaziale che si schianta sull'occhio della Luna dal volto umano, entra nell'immaginario collettivo ed è una delle sequenze che fanno la storia del cinema. Con l'avvento del sonoro, al film viene aggiunto un commento musicale e una descrizione dei fatti. The mood magnifies rapidly until finally it attains colossal dimensions. Suddenly, the shell pierces the eye of the moon. Viaggio nella Luna è la prima opera di finzione cinematografica ad avere un successo mondiale, ma anche un altro primato. È infatti il primo esempio di pirataggio della storia del cinema. Alcuni agenti di Thomas Edison corrompono infatti il proprietario di un teatro di Londra per ottenere una copia del film. Edison ne fa poi stampare centinaia per proiettarle a New York senza pagare nulla a Méliès. Nel frattempo, Segundo de Chamon prende una decisione sofferta ma definitiva, quella di ritornare nella sua terra di origine, dove intende portare la sua esperienza e creare un cinema spagnolo. La sua indubbia abilità lo porta ad essere definito il Méliès spagnolo ed è ricordato per aver inventato il carrello cinematografico, che viene utilizzato per la prima volta sul set del colossal muto Caviria del regista Giovanni Pastrone. Non percependo alcun diritto d'autore, Méliès non trae alcun guadagno dalla riproduzione delle sue pellicole, ma solo dalla vendita singola. E quando con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale la sua produzione si deve fermare, il suo teatro va in bancarotta. Il grande inventore subisce un tracollo finanziario tremendo. Si vede costretto addirittura a vendere dolci e giocattoli in un chiosco alla stazione di Paris Montparnasse. E solo anni più avanti viene riabilitato grazie all'intervento di un giornalista, ricevendo la Legion d'Onore direttamente dalle mani di Louis Lumière. I suoi 1500 film e la impagabile collaborazione con Segundo de Chamon rappresentano tutt'oggi un patrimonio ricchissimo di spunti di incredibile capacità creativa. Destini incrociati. Destini incrociati. adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.